Sono le ore 18:11 di venerdì santo, 29 marzo 2024, e per commentare una conversazione che ha coinvolto varie persone come Suzuki Paruti, cioè Enrico Sola, Elena Bibolotti, Laura Campiglio, sul problema di come scrivere le cose che vogliamo scrivere sulle varie piattaforme, no? Perché sì, è vero, cioè io confesso miseramente che molto spesso faccio copia e incolla di quello che voglio dire, scrivere, e con un gesto di straordinaria pigrizia lo metto un po' nei posti dove mi sembra che possa reggere, tipo Twitter, Facebook e adesso anche Threads, no? Threads che dovrebbe essere magari un luogo un po' più normato, strutturato, con un po' più di attenzione alle parole, invece io faccio questo gesto molto sciatto, no? E c'è chi, come Laura, appunto dice: non pensavo che le menti più fervide della nostra generazione potessero fare questa fine di sbattersi a copia e incollare le cose. Ma quello che mi sento dire però che mi ha spinto a interrogarmi, no, sulle ragioni profonde del perché faccio questo, è solo pigrizia o forse semplicemente anche una voglia di non arrendersi all'idea che fondamentalmente ogni piattaforma ci vende il suo pubblico che è imprigionato in una specie di luogo ristretto, no? Quindi io, per andare a prendermi tutte le persone con cui normalmente interloquisco, devo finire per fare delle cose che dovrebbero obbedire alle regole delle singole piattaforme, no? Quindi per esempio su Twitter massima concisione, e ovviamente meno link possibile. Facebook uguale, addirittura bisogna mettere il link pare nel primo commento, ma perché altrimenti chissà cosa succede, l'algoritmo. Perché poi questo fatto anche di far vedere che non si linka direttamente nel post è anche un modo per sottendere l'appartenenza a quel mondo degli addetti ai lavori che sanno i segreti dell'algoritmo, no? Di cui è molto molto difficile fare, vista la sua opacità in reverse engineering, se posso permettermi. Però al di là di questo, il fatto di obbedire alle regole di ogni singolo mondo chiuso significa rinunciare per sempre alla logica del chi mi vuole leggere viene nel mio posto libero, che una volta era magari il blog, no? Dove tu scrivi le cose una volta sola, e il fatto di andare ovunque significa che tu fondamentalmente vuoi che chi prima magari ti seguiva lì perché ti andava a cercare adesso sta sparso in vari mondi chiusi. Io mi chiedo, ma perché dovrei diventare una specie di piccola macchina di marketing di me stesso, no? Che massimizza il contenuto in modo da funzionare meglio. Io una cosa fondamentalmente ho da dire, e diciamo delle due componenti tossiche: le piattaforme chiuse in una rete che sarebbe aperta, oppure il Ctrl-C, Ctrl-V di Windows, il copia e incolla del telefono, ma secondo me la seconda è molto meno tossica della prima. Se dobbiamo arrendiamoci al copia e incolla, che va molto meglio.